una volta? No, no e no! Qui non troverete fagioli magici, mele avvelenate, radici incantate, tartufi d'oro, code di rospo e tutti quegli ingredienti da vecchie fiabe. Qui ci vuole una ricetta per bambini di oggi. Proviamo con questa allora. Il paese dei bambini tutta bocca si trova lontano dal mare, lontano dalle montagne, lontano dalle colline e dalla campagna. Il paese dei bambini tutta bocca è anche lontano dalle città, dal traffico, dai marciapiedi sporchi e dalle scuole. Il paese dei bambini tutta bocca non è nemmeno un paese, ma una piccola scatola che contiene un mondo in miniatura. Mare azzurro, montagne bianche, colline verdi, città. Dentro quella scatola c'è proprio ogni cosa. I bambini tutta pancia guardano incantati per ore quel magico mondo come si guarda un acquario. Sognano anche loro colazioni intorno a un tavolo imbandito con mamma, papà e fratellini tutti sorridenti. Sognano una scuola in cui le maestre sono simpatiche e non danno mai brutti voti. Sognano quelle case con un giardinetto fiorito, dove si può anche giocare a pallone con gli amici e fare i picnic. Dentro la scatola, i bambini tutta bocca sorridono sempre e fanno l'occhiolino a quelli che li stanno a guardare. Tutta questa felicità è merito delle loro super merendine, circondate da tante stelline luminose come se fossero magiche. Anche noi, gridano i bambini tutta pancia e subito corrono tra le corsie di enormi supermercati, riempiendo giganteschi carrelli di coloratissimi pacchi, pieni di ogni tipo di magiche briochine, con sorprese strabilianti. Anche Ciccio è un bambino tutta pancia, ma non uno qualunque! Ciccio è il più veloce, famelico, ghiotto, grufolante divoratore di merendine del quartiere e ha una collezione di sorpresine da far impallidire l'esercito di terracotta dell'imperatore cinese Qin. Ciccio è il più grosso di tutti i bambini tutta pancia. Ma dove sono le magie? Dove sono le mamme e i papà sorridenti? La scuola in cui si fa solo l'intervallo, il giardino per giocare e tutte le altre meraviglie? Ciccio non capisce perché con lui la magia non funziona mai. Così pensa di essere vittima di un terribile incantesimo. Più mangia merendine, più il cortile del suo palazzo diventa piccolo e grigio. Il cartello vietato giocare a pallone è sempre lì. Anzi, qualcuno ha aggiunto a mano vietati gli schiamazzi. Così, senza amici, la mamma ancora al lavoro. Guardiamo per un po' i bambini tutta bocca, pensa Ciccio. Eppure non accade nessuna magia. Che invidia! Magari se mangio quest'altra merendina, si dice Ciccio, inghiottendo enormi bocconi di un grosso fagottino al cioccolato. Magari se mangio questa, si intestardisce leccandosi le dita incollate dalla gelatina che ricopre un morbido disco volante di sfoglia. Forse con quest'altra funzionerà, spera, ingozzandosi con uno spumino a forma di trombetta. E mentre mangia e mangia e mangia, guarda le sorprese, le mette da parte e butta tutto intorno mille bustine strappate di plastica trasparente, fino ad esserne mezzo sepolto. Intanto la sua pancia cresce e cresce fino a diventare un'enorme palla. Ormai Ciccio non riesce più a camminare in modo normale, ma rotola qua e là dondolando come un ridicolo pupazzo di stoffa pieno di segatura bagnata. Un pomeriggio, per riposarsi dalla sua faticosissima andatura rotolante, Ciccio si lascia andare di schianto nella poltrona del salotto, quella in cui papà si appisola sempre dopo cena guardando la TV. Ho Ormai però Ciccio è così grasso che sprofonda e si incastra nella poltrona in modo tale da esserne completamente inghiottito e non può più alzarsi. Spossato dai tentativi di liberarsi, a un certo punto si addormenta profondamente. Nonostante dalla scatola magica, i bambini tutta bocca continuino a strepitare. E così comincia a sognare. Sogna che la sua poltrona esplode, catapultandolo nel vuoto e facendolo girare, girare, girare in un vortice colorato di croissant, biscotti, tortine, zuccotti, mentre i mostriciattoli trovati nei pacchi di merendine sono diventati giganteschi e cercano di morsicargli il sedere. Finché, improvvisamente, tutto si placa e appare una strana vecchina. La vecchia signora potrebbe essere una strega, ma anche semplicemente la bisnonna che Ciccio non ha mai conosciuto. La vecchina sta preparando una specie di torta e dal forno spira un profumo così irresistibile che a Ciccio pare di svenire anche in sogno. «Ti prego, nonnina, dimmi come fai a fare questa meraviglia!» La vecchina, sorridendo, comincia a spiegare. «Innanzitutto devi mettere insieme gli ingredienti che ti serviranno. Mezzo chilo di farina, un etto abbondante di burro, un etto e mezzo di zucchero, un paio di uova, anche tre, una bustina di lievito, un pizzico di sale, la scorza grattugiata di un limone e due belle mele dolci. Ma soprattutto, se vuoi che la magia riesca, devi essere tu a farla con le tue mani». Piano. Poi fai con la farina una montagna, con il buco nel mezzo come un vulcano. Sbriciola nel buco il burro di campagna e riempilo di zucchero piano piano. Forza, forza, non sarai già stanco. Rompi le uova e metti il rosso e il bianco. Grattugia in fretta la scorza di limone e aggiungi pure quella al calderone. Ora pasticcia gli ingredienti nel cratere e un po' di sale e lievito dall'alto fai cadere. Poi lentamente unisci la farina che c'è intorno. Ma aspetta, non è ora di metter già nel forno. Mescola e lavora questa pasta gialla finché non verrà fuori una bella palla. Stendila poi con un gran matterello e diverrà un tappeto sottile e tonderello. Adesso puoi tagliare le due mele a fette e scegli tu se farle più larghe o un po' più strette. Mettile al centro del cerchio di pasta. Sei quasi alla fine, non dire già basta. In ultimo ora, come fosse un fagotto, chiudi bene il pacchetto, tirando su i bordi di quel fazzoletto. Abbi pazienza, cuocerà al caldo nel forno. Lascialo e pensa, tra un quarto d'ora torno. Attento che non bruci, ma che sia color dell'oro. E poi di complimenti udrai un gran coro. Dopo queste parole, la vecchina svanisce e Ciccio si sveglia di soprassalto. Non sta più nella pelle, vuole assolutamente preparare la torta prima di dimenticare qualche particolare della ricetta. E senza rendersene conto, riesce subito a divincolarsi dalla morsa della poltrona. Cerca questo, prendi quello, mescola qui, sbatti di là. In breve la cucina diventa un campo di battaglia. E con il sesto senso che hanno tutte le mamme, quella di Ciccio sceglie proprio quel momento per tornare a casa. La povera mamma va su tutte le furie. Ma cosa ti sei messo in testa ora? Non sai più come complicarmi la vita. Sei tutto sporco e guarda la mia cucina. Ciccio però è più emozionato e felice che mortificato. E ormai non tenta nemmeno di giustificarsi. Ma non è colpa mia, è stata la nonnina! E ride con la faccia piena di zucchero a velo. Allora anche la mamma si fa contagiare dall'entusiasmo e si mettono insieme a impastare, guarnire e infornare. La mamma e Ciccio sono così allegri che quando il papà, tornato dal lavoro, li vede, dice: «Ma che bella sorpresa! Non capitava più da tanto tempo!» In realtà, la torta riesce un po' sbilenca, ma il suo profumo invade tutto il cortile e le scale del palazzo, mentre dalle finestre sbucano tanti musetti ghiotti e curiosi. Ed è così che Ciccio, imparata la lezione, passa la voce ai suoi compagni, questi ai loro amici e così via, finché i bambini tutta pancia smettono di stare ore e ore a guardare la scatola magica dei bambini tutta bocca e in breve tempo diventano tutti più sani e allegri. E da allora vissero per sempre genuini e contenti.